Dai, vado a iniziare. Ma lo volete in inglese o in italiano? Italiano! Sì? Italiano. Grazie. E comunque lo intendo lo spagnolo, se fa le domande vanno bene in spagnolo. E se, insomma, se io non capisco, se voi non capite, ce lo diciamo, ok? Italiano, no! Ok, allora, questo è un progetto nuovo, nel senso sono 5 mesi che ci stiamo lavorando su e infatti anche dal titolo a quello che stiamo arrivando ad avere troverete delle differenze, perché il progetto è iniziato volendo cercare di capire come Facebook fa tracking sulle persone, quindi come Facebook traccia le persone. E però in questo modo avremmo dovuto, ci siamo resi conto che non avevamo molti meccanismi per avere queste informazioni. E quindi ci siamo spostati sull'analizzare, cercare di analizzare e avere una visualizzazione della bolla di filtro. L'audio è già abbastanza. E quindi ci siamo spostati sul fatto di cercare di avere una visualizzazione della bolla di filtraggio che Facebook fa su di te. Avete presente cos'è una bolla di filtraggio? Ah, io ho le slide, tra l'altro, che però sono nel mio zaino, che però è qua. Fa tutto sparso in giro. Ah, cazzo, tu c'hai il wifi qua? Sì? No, se il computer c'ha il wifi, sì, c'è il wifi. Perché così gliele passo da qua. Vabbè. Perché non ci ho pensato di farlo prima. Vabbè, non me lo sono chiesto. Affanculo. Allora, e quindi ci siamo spostati sul cercare di capire qual è la bolla di filtraggio che Facebook opera al tuo profilo, ovvero principalmente nel tuo profilo hai un tot di post che provengono dai tuoi amici, un tot di pubblicità e... Ah. Ok, vero. Allora, i diversi contenuti che trovi pubblicati nel tuo profilo Facebook non sono tutti i contenuti che provengono dai gruppi a cui sei iscritto, dai post che mandano gli amici principalmente, ma vengono filtrati in base ai tuoi interessi e gli interessi dei tuoi amici. Quindi Facebook traccia tutti i movimenti che fai e i movimenti e le visualizzazioni e i commenti dei tuoi amici per fare in modo che i post che vedi siano aderenti a quello che tu vuoi vedere. Okay? Ma in questo modo ti pratica un filtro a priori e quindi ti crea una visione del mondo intorno che è chiusa, evitando le differenze, ok? E questo è un enorme potere, perché ti crea una visione distorta della realtà intorno e quindi della tua possibilità di esercitare la libertà, ok? Perché sei libero, ma se non sai che cosa c'è all'esterno, non sei davvero libero. Un attimo che faccio sta cosa. No, vabbè, dai, faccio senza slide. Tanto lo vediamo e poi dura poco. Allora, il progetto quindi in che cosa si articola? Abbiamo detto, come possiamo avere informazioni da Facebook? Aiuto! Non avendo possibilità che Facebook dia informazioni a noi, l'unico modo è che gli utenti stessi che usino Facebook ci permettano di estrarre le informazioni mentre lo utilizzano. E quindi principalmente il progetto di Facebook Tracking Exposed si concretizza in uno script utilizzato su TamperMonkey, quindi si installa un add-on, un plugin di Firefox o di Chrome sul tuo computer e quindi aggiungi l'user script, lo script di Facebook Tracking Exposed. A questo punto, tutte le volte che stai navigando in Facebook e sei sul tuo profilo, appare un simbolino che ti dice che Facebook Tracking Exposed sta facendo lo scraping del DOM della tua pagina che stai visualizzando e sta mandando tutte le informazioni sia di contenuti che di metadata, che quindi sono nell'HTML e sono invisibili ai tuoi occhi nella pagina Facebook, le sta inviando tutte al server su cui è configurato, cioè al nostro server. Vabbè, vi faccio vedere come funziona al volo. Noi lo stiamo facendo sulla base che non sia utile soltanto a noi. Che tastiera c'hai? Non sono switchate. Scusa, TamperMonkey? Sta su Chromium. No, però aspetta. Che tastiera c'hai? Sì. Su questo computer. Però adesso ci andiamo. Allora, è pensato per... In questo momento lo stiamo utilizzando noi per fare alcune visualizzazioni che ora vi mostro, però è pensato in modo che possa essere utilizzato con delle API anche con delle API anche da dei gruppi di ricerca che quindi possono chiedere l'aiuto di ristretti gruppi di utilizzatori di Facebook per fare ricerca su di loro. E pensato perché singolarmente tu possa vedere come ti viene costruita la bolla di filtraggio attorno a te. Ok, installato. Clicca qui. Che ha funzionato per niente. Ma è possibile... Ah, ce l'hai control. Perché sta facendo... Ah, sì? Perché sta facendo così? Ok, ti apro Chrome. Che è già installato. Però poi c'è il tuo Facebook. Non sta scrivendo. Vai. Che cazzo era? Ok, qui lo script è già installato. Infatti qua nell'angolino in basso vediamo il simbolino strano di Facebook Tracking Exposed. Quindi tutta questa pagina viene mandata al nostro server, viene preso tutto il DOM. Così? Oh no, continuano a vedersi. Ok. Quindi appare questo una volta che avete installato lo script, quindi sapete che state mandando. Ma guarda che è il reality check. Che state mandando il DOM della vostra pagina al nostro server, a Facebook Tracking Expose, che in questo modo ci permette di fare alcune visualizzazioni. Per esempio questa. In questo momento stiamo vedendo dei vari screenshot, possiamo dire, cioè stiamo vedendo con questi colori i post che ti provengono da dei feed di gruppi, in giallo i tuoi link di amici e questi sono gli advertisement, la pubblicità. E si può, chiaramente non questa volta, abbiamo tutti, insomma, abbiamo alcuni metadati che vengono raccolti e per esempio in questo caso sono mostrati in ordine cronologico, cioè li stiamo vedendo, praticamente non c'è sono scelti, però non si vede che vengono portati in alto nella tua pagina per attirare la tua attenzione in base appunto all'algoritmo personalizzato che Facebook crea su di te. In altri casi è... Ah, ok. Un tempo c'era un bellissimo... Sono... Allora, in questo caso non si vede, schiacciando questo bottone te li riordina in base all'ordine cronologico della creazione dei post, che però in questo momento sta coincidendo anche con come li stai vedendo nella pagina. Però in altri casi, dicevamo, forse non sta succedendo perché Cocco non utilizza questo Facebook, quindi è un fake. Però in altri casi con altri utenti, adesso vedo se riesco ad avere un utente random, vedi proprio che l'ordine cronologico è sovvertito dalla personalizzazione dell'algoritmo che Facebook fa su di te. Eh sì, cioè questo è un tentativo di rappresentazione. Allora, noi stiamo raccogliendo i dati e il progetto è in sviluppo, per il momento siamo in nove che ci stiamo lavorando sopra. E anche una volta che hai i dati, capire come rappresentarli in modo che siano comprensibili alle persone non è una cosa tanto facile. Quindi al momento come visualizzazioni ci è venuta in mente questa, che ti fa vedere colonna per colonna, appunto questa è la sua giusto. Allora, cioè, è il suo profilo in quel momento lì. Dopodiché l'altra di fianco è come una istantanea del suo profilo in un altro momento. Perché tu su sta tastiera tutto funziona diverso? Fai FC. Non sono connessa a Ethernet. È morto. Ah, prima per sbloccarmi la tastiera mi hai tolto il wifi per un'interconnessione non comprensibile. Attendiamo, va bene. Ok. Quindi qua facciamo F5 anche di qua, F5 non refrescia. È risuccesso. C'è di nuovo. Non so perché succede questa cosa. Ma non l'ha fatto in tutto il giorno. Lo so. Perché lo sente? Allora, tutte le volte che facciamo il refresh della pagina mandiamo delle informazioni al nostro server che raccoglie da questo script. Quindi 18:13 del 30, questa è la pagina di prima, andiamo di nuovo a refreshare, dovrebbe arrivarne altri. Perché ogni volta che fai il refresh del tuo profilo, alcuni post scompaiono e ne salgono altri o ti arrivano differenti pubblicità. Tanto che attendiamo. E vi stavo dicendo, ok, gli utenti, cioè per ora ci stiamo facendo ricerca soltanto noi per cercare di capire che visualizzazioni avere, che possano essere comprensibili dalle persone. L'obiettivo è dare a chiunque altro lo voglia utilizzare, il codice è disponibile su GitHub, torno di là adesso, appena vediamo questa cosa qua. Ok, abbiamo quella delle 18:13, abbiamo solo ottenuto il primo post perché non ho scrollato, non ho fatto lo scroll del profilo, quindi è stato del DOM è stato preso solo questo. Su GitHub il codice è disponibile, ma ero su... Lo so, però, ok. E l'altro obiettivo è che si possa essere utilizzato dalle persone appunto per poter vedere la propria bolla di filtraggio, perché da questa visualizzazione è il timeline graph che abbiamo visto prima e tu lo puoi modificare per il momento cambiando nell'URL il tuo ID utente Facebook, quindi prendi l'ID utente dall'URL di Facebook e lo riporti qua sempre con molta calma. E, vedete, adesso lo stiamo vedendo per questo. Questo non è il profilo, sono sull'altro browser e non è collegato al profilo di Cocco, perché prima abbiamo cliccato dalla nostra pagina Facebook, è apparso il simbolino di Facebook Tracking Exposed e siamo andati a vedere la nostra visualizzazione, no? Come un utente che vuole cercare di capire come gli vengono manipolate le informazioni da Facebook. E invece in questo caso siamo in una visualizzazione di un utente a caso sulle parti che rende pubbliche, perché in realtà il problema, ecco, neanche qua ci sta facendo vedere, comincio a dubitare, ma ok, questo è dal tipo, stanno coincidendo, ma se siete interessati al progetto e volete, insomma, avete modo di ritornarci, invece scoprirete che questa parte, che chiedendogli di metterli in ordine cronologico oppure di farveli vedere come ve li sta mostrando, cambia. No, l'info aggiunge soltanto i dati di pubblicazione, eccetera. Ah, sì, è possibile. No, non è successo. Ok. Le altre visualizzazioni, una è sui dati che abbiamo, quindi per capire, al momento abbiamo una settantina di utenti, che è la pagina Impact. Ah, ma ecco dove sono. Allora, quella era la versione precedente. Anche, cioè, noi ci stiamo lavorando in queste settimane, non è che è una cosa molto ordinata al momento. Se vogliamo andare verso l'aspetto tecnico, è uno script in JavaScript, la parte che utilizziamo gira su Node.js, lato server, le visualizzazioni sono fatte con D3.js, Data Driven Document, non so se conoscete, e questo è quello di prima, però continuiamo a essere sullo stesso utente, va bene. vi mostro. Vedete qua in fondo all'URL, come vi dicevo, c'è l'ID utente che quindi può essere modificato per vedere la propria. Non abbiamo una vera e propria privacy policy, nel senso che il problema è che noi riceviamo dal DOM dell'utente tutti i dati, sia quelli pubblici che quelli invece privati, secondo la policy di Facebook, e quindi compartiti soltanto con gli amici. E questo è un problema che dobbiamo risolvere, perché è un'altra delle altre visualizzazioni, che adesso sono tre in totale, quindi ci mettiamo qua. Ha smesso di andare la tastiera, che cosa devo fare con questo computer? Grazie. No, scusate, li ho aggiunti. La pagina Impact serve a mostrare la globalità della raccolta dati che stiamo facendo. Cioè, vi dicevo, abbiamo circa una settantina di utenti che ci stanno mandando i loro dati, c'è un grafico che ci mostra la loro distribuzione geografica su tutto il mondo, e infatti ha un po' di maggioranza italiana, e un altro grafico che ci mostra tutti i post che vengono raccolti, tutta la quantità in generale delle... Perché? L'altimeter è quello di prima, però... Chiaro, tutti questi li ho guardati 5 minuti fa prima di iniziare la presentazione e funzionavano, però. E l'altro grafico ci mostra il totale di quanti post sono stati raccolti, di quanti feed dei gruppi, eccetera. L'ultimo grafico che è ancora in sviluppo, adesso io vado avanti a dirveli, però non sto riuscendo a farveli vedere. L'ultimo è quello che a noi dà più problemi di privacy, però è quello più interessante, dobbiamo ancora riuscire a scrivere qualcosa che tuteli anche gli utenti, che mostra in base alle relazioni degli utenti come i post che hai condiviso con questi utenti, i tuoi amici, salgono e scendono a seconda di come anche gli altri li visualizzano. Però, insomma, noi stiamo anche cercando persone che vogliano partecipare. Okay. Questo è quello che vi dicevo, che adesso è soltanto appunto per evitare che si capisca chi sono i nostri utenti contributori, al momento è soltanto un test. In attesa che riesca a farveli vedere, ci sono domande? Quello che ho detto è che sa che lo sbaglio solo per un foro di Facebook. Per me si tratta uno del team scaricando i loro amigos di vederlo che effettivamente hanno pubblicato e di compararlo con lo che sale nel foro o no. Perché io tengo la sensazione che hai cose che gli llegano a salire del foro. Però al momento noi riusciamo a, se entrambi gli amici sono nostri contributori, cioè se entrambi gli amici hanno installato TamperMonkey con questo script, riusciamo a incrociarli, i post che vengono condivisi tra loro, ma se no, anche prendendo la pagina di un solo utente, sapendo che ha quegli amici, non possiamo avere dati su che cosa si vede nella pagina di quegli amici. Perché noi tutti i dati che prendiamo sono quelli che ti vengono visualizzati dal browser, mentre usi te Facebook. Se non lo stai usando, non li abbiamo, tra l'altro. Infatti è per quello che nel reality check che vedevamo prima delle varie timeline, ci sono dei buchi perché la pagina Facebook esiste soltanto nel momento in cui l'hai chiesta dal tuo browser. e quindi noi la pigliamo. Questo è, sì, è il grafico che dimostra insieme i vari utenti. Ah, è vero che di lì se ne vede solo metà. Bene, possiamo prenderci anche un po' più di spazio. Allora, qua possiamo vedere che sulla barra orizzontalmente ci abbiamo dei nickname per rappresentare dei diversi utenti. E queste lineette gialle sono tutte le volte che il nostro script si è portato via la pagina Facebook della persona, se l'è copiata, e i puntini sono i post che accomunano e sono stati condivisi da questi vari utenti. Questo invece indicatore, alto, medio e basso, è quanto è rilevante quel post, quindi le impressioni di like totali che si sono avute in totale, ecco, con l'interazione di tutti gli utenti. Il problema grosso riuscire a trovare delle rappresentazioni che ti riescano a far capire la bolla di filtraggio. Appunto, noi per ora abbiamo trovato principalmente queste due. Poi vi ho detto, la terza che stavo cercando di caricare prima è soltanto un metagrafico su noi stessi, per dirti ok, gli utenti sono questi, i post che stiamo analizzando, gli utenti sono una settantina, i post che stiamo analizzando sono 30-40 mila, le nazionalità di queste persone, la lingua con cui sono questi post sono spalmate più o meno su tutto il mondo. Questo vi faccio vedere il progetto su GitHub, così sapete dove andarlo a prendere, e poi se qualcuno ha delle domande oppure vuole contribuire o ha delle idee o se vuole fare una chiacchiera mi trova dopo per chiacchierare, insomma io sono qua. Poi appunto questo è lo strumento schietto, forse, cioè parlare della bolla di filtraggio e come Facebook, perché ha questo potere, eccetera, è tutto un altro argomento amplissimo. Esatto, esatto. Cioè questo noi ci rendiamo conto anche utilizzando Facebook che succede. Il problema è visualizzarlo in maniera con dei dati. Sì, comunque sì, il meccanismo è questo. Stiamo lavorando, ora per ora ci sono queste visualizzazioni. Sì, forse non ho capito. Sì. Il software che avete fatto tiene già in conto di questa nuova mossa di Facebook delle emozioni? Oppure non lo so, questo non ne ho idea. Ok, non lo so. No, per ora, cioè lo script si interessa soltanto della tua pagina Facebook. Sì. Sicuramente c'è un'interazione, anche Facebook verso il fuori, perché comunque rivende anche i tuoi dati, però... Va bene, qua trovate il progetto su GitHub. Ah, dimmi. Non lo so. Se ha uno stesso identificativo Facebook e Google, non lo so. Se le persone. Se Facebook sta usando lo stesso OpenID di Google, io non lo so. Sicuro per un sacco di servizi tu hai appunto delle API che ti mostra Facebook che puoi utilizzare la loro autenticazione e quindi sa un sacco di cose in più, poiché o Auth versione 2 su tutto quello che è smartphone, e che molto spesso è anche Google in mezzo che ti fa da server ponte, diciamo, per l'autenticazione dall'applicazione smartphone a Facebook. Sono altri meccanismi loro interni che esistono. Non so se usa OpenID proprio. E basta, se no rubo il tempo a Libreant. Sì, sono in qualità.